su Rigonia. Faccio solo un piccolo passo indietro per, diciamo, per agganciarmi a quando è nata questa idea, che risale a qualche anno fa, in particolare al 2020. Per me il 2020 è stato un anno davvero molto molto importante. Sono stata fortunata perché tutti noi siamo stati bene, i miei amici, i miei parenti, quindi quello che è successo col Covid per me ha portato solo cose belle. Con rispetto di chi ha sofferto e ha patito, ci mancherebbe altro, però io, portando la mia esperienza, porto solo cose belle. E quindi avevo espresso un desiderio alla fine del 2019, quando mi trovavo in Sicilia, presso Farm, che era, io ancora avevo il mio lavoro che stavo, insomma, seguendo da più di 10 anni, però lo stavo per lasciarlo, e quindi il mio desiderio che espressi era: io dal prossimo anno voglio fare un lavoro creativo. Questo. E difatti le cose sono andate così, perché ho chiuso appunto quel master in rigenerazione urbana a febbraio con la tesina, e poi è nata l'associazione per la diffusione delle scuole di architettura per bambini, che tra parentesi adesso siamo in più di 20 città in Italia, quindi insomma siamo molto contenti. E poi la cosa, diciamo, più importante per la mia vita in generale è stata quella di Radio Antidoto, perché proprio nei giorni in cui è scoppiata la pandemia, con mio papà con 39 di febbre, mi trovo un messaggino su Telegram che diceva: ma stiamo per far partire una radio e siamo in due, ma tu ci saresti? E io ero completamente frastornata, preoccupatissima, stordita, però ho detto sì, voglio. E da lì è iniziata l'avventura, no? E un'altra cosa importante che è accaduta in quelle settimane è stata che il trasloco che era in programma proprio per marzo, poi a maggio è avvenuto e mi sono trasferita dove sono attualmente, dove mi trovo in questo momento mentre stiamo parlando. Questa casa ci vivo da sola, è molto grande per una persona da sola, e quindi un po' il mio desiderio di fare dell'attività con la creatività, la radio che ormai era già attiva. E, insomma, ho detto: io qui in questo posto voglio portarmi gli artisti. Buongiorno Radio Antidoto, buona domenica 9 giugno 2024, questa è Erigonia, stagione seconda, episodio 29. Non sentirete molto la mia voce, ho intervistato Cristina Vignone il 28 maggio e le ho chiesto di parlare della residenza artistica che lei organizza, che si chiama Rosso 9 ad Alassio. Sfortuna ha voluto, l'ho detto in precedenti puntate, che purtroppo il mio microfono non solo non sia stato registrato, ma produca anche dei fastidiosi rumorini, tipo delle cose un po' scusate, un po' antipatichine. Quindi stamane ho fatto il lavoro che era da un po' che rinviavo. Non so se sentite, non capisco se gli uccellini entrano nel microfono. Sarebbe veramente carino, ci sono degli uccellini che fanno molto rumore fuori da casa mia. E, ho pulito l'audio e vi farò sentire gran parte dell'intervista. Un paio di sezioni, diciamo, un paio di momenti che sono stati quelli più dialogici, li ho dovuti epurare perché non avevano senso. E non sarebbero stati un ascolto molto chiaro, però grazie al cielo Cree è una straordinaria storyteller e quindi sono riuscito a creare dei blocchi anche piuttosto compatti, interessanti, da potervi far ascoltare così. Ho fatto mandare una canzone perché non credo che sarei riuscito a coprire tutta la lunghezza di un episodio tradizionale di Erigonia. Ho voluto inserire questa versione modificata di Everything in its Right Place di Radiohead in tono maggiore, che mi sembrava molto, molto azzeccata rispetto, come dire, all'argomento, all'intervista, al mood. Quindi io lascerò molto spazio alle parole di Cree e vi invito appunto a scoprire l'attività e il mondo e anche la filosofia dietro Rosso 9 e il suo impegno, la sua missione come residenza artistica. Buon ascolto. Volevo viverla questa esperienza, no? Non c'era soltanto una finalità di andare a esplorare dei mondi nuovi, dare la possibilità agli artisti di esplorare delle cose, esplorare la loro creatività, ma volevo viverla insieme a loro. Però è rimasta un po' in stand-by, c'erano altri progetti, altre cose. Fin tanto che lo scorso anno ho detto no, adesso è arrivato il momento e bisogna partire. Mi sono messa lì una sera, la prima cosa ho cominciato a prendere due pastelli colorati, ho voluto mettere su cartoncino, dare un po' di concretezza, no, al progetto. E quindi in realtà in modo molto spontaneo, molto semplice, anche se poi chiaramente come tutti, fammi usare il termine, i loghi hanno dei loro significati ovviamente, e anche quello di Rosso 9 ce l'ha, e così ha preso forma quell'idea che era nata 3 anni prima praticamente, grazie alla collaborazione della radio di Federico e questo profondo desiderio che avevo di realizzarlo, insomma, e alle sue capacità che in un attimo ha impostato la struttura del sito, abbiamo lanciato la call e è cominciato ad arrivare delle mail con dei racconti, racconti di persone, perché non abbiamo chiesto di inviare il curriculum, di fare delle cose di questo tipo, ma semplicemente di fare una proposta, lanciare un'idea nella modalità che ciascuno preferiva, no? Quindi volete mandare un segno, un disegno, uno scritto, e sono arrivate cose molto belle. E così abbiamo selezionato con Federico Bonelli i primi 4 artisti. In realtà erano 5, a dire il vero. Poi c'è stato un imprevisto e quindi una coppia di ragazzi polacchi l'anno scorso non ha potuto poi essere presente. però abbiamo avuto quattro persone splendide. Abbiamo cominciato a metà febbraio e finito a fine luglio, perché comunque c'erano delle brevi pause, insomma, tra un artista e l'altro. I tempi li abbiamo concordati insieme con ciascuno di loro, non c'era niente di prefissato, no? Di predefinito. E quindi io mi sono messa a disposizione e abbiamo cercato di, insomma, di incastrare tutti quanti. E, è stato, vabbè, bellissimo. In certi momenti è stato impegnativo, anche un po' faticoso, e soprattutto da metà giugno in poi, ma semplicemente per il caldo, ti devo dire la verità. Comunque, perché ci sta. Allora, noi abbiamo indicato come tematiche diversi luoghi in un tratto di costa che va da Alassio a Finale, sono circa 30 chilometri. Il tema fondamentale, quello che è il nostro motto, è il nostro chiodo fisso, è consumo di suolo zero. E detto in Liguria, sulla costa. Cioè, è una roba che è veramente lunare, che qui basta un vecchio pollaio e sicuramente ne diventa una casetta con diversi appartamenti. E quindi, insomma, è una bella sfida, ecco. Perché questo tema? Questo tema perché, vabbè, intanto perché a me sta a cuore particolarmente, amo questo posto dove sono nata, anche se a me piace comunque viaggiare, mi piace andare in giro per il mondo, conoscere altre persone. Ai tempi dell'università la mia passione era più l'urbanistica, anche se in realtà io poi feci una tesi su recupero ed analisi tecnica dei monumenti antichi. Comunque il mio focus non è mai stato sul costruire, fare l'architetto, no? Che deve lasciare il suo segno, la sua scultura, ma mi sono sempre più sentita in sintonia con l'esistente, sia che si trattasse di paesi, città costruiti che l'ambiente naturale. Rigenerazione urbana, sì, assolutamente. L'urbanistica intesa come era concepita negli anni 70, 80, praticamente prevedeva un team di progettisti che si metteva a tavolino e cominciava a fare dei segni sulla carta assegnando delle funzioni ad aree differenti. Mi viene in mente l'area artigianale, dico artigianale perché qui grosse industrie, a parte alcune aree dismesse, non ne abbiamo. E poi questa è la zona, che so, che la puoi edificare a villette, qui invece facciamo delle case in edilizia convenzionata e poi chiaramente i singoli comuni si dotano dello strumento urbanistico, che è la massima espressione del piano regolatore generale, e quindi poi si sottosta a quelle decisioni che sono state prese dai professionisti su indicazione chiaramente degli amministratori di quella città. Città, cittadina. L'ho fatta in modo molto semplice. Invece la rigenerazione urbana è intesa in quanto tale, è un processo. È un processo che nasce insieme ai luoghi, nei luoghi, insieme alle persone, alle comunità. E quindi e chiaramente poi come rigenerazione urbana ci si dedica ad aree che erano già state utilizzate con altre funzioni. E il cambiamento che è avvenuto nelle nostre città, nelle nostre periferie, ma anche qui da noi, è enorme. Finale c'è uno dei luoghi che abbiamo preso in considerazione per le residenze artistiche e si tratta delle cave, ex cave Ghigliazza, che si affacciano praticamente direttamente sul mare. E difatti una delle artiste dello scorso anno, Lenka Rosendahl, che è una giovanissima che tu hai conosciuto, hai incontrato, di origine della Repubblica Ceca, che però quando è arrivata qui è partita dalla Scozia perché stava facendo un periodo, insomma, per la sua formazione universitaria lì, e lei ha deciso proprio di lavorare sulle cave, no? Quindi è stata con lei un'esperienza veramente bellissima perché di straforo, cioè di nascosto siamo entrate, abbiamo cominciato un po' a perlustrare, no? E poi uscendo ci hanno beccato. E il guardiano ci ha detto cosa fate qui? E allora, insomma, c'era, no, qui è proprietà privata, non si può entrare. Insomma, comunque abbiamo fatto una chiacchiera e siamo riusciti ad avere il contatto mail del curatore fallimentare di quell'area. Sì, perché era in dismissione da anni ormai e quindi l'abbiamo contattato e insomma siamo riusciti ad avere poi l'autorizzazione per tornare perché l'Enca voleva prelevare dei campioni, dei pezzi di sassi colorati e con duro lavoro nel periodo che è stata qui lei si è creata i suoi pigmenti per realizzare le sue opere. E lei è un'artista visiva e ha realizzato ben sei dipinti con i pigmenti che si è realizzata da sola col pestello dei che abbiamo prelevato alle cave. Rigo ni a. Io vedi che adesso vago, vado di qua e di là. Mi riaggancio al discorso della rigenerazione urbana. In realtà poi la rigenerazione urbana è stata presa per il racconto della speculazione edilizia contemporanea, che chiaramente non si, non, non, è stata snaturata, insomma. Si continua a fare speculazione e più delle volte non si fa rigenerazione urbana. E invece quello che si vorrebbe, almeno che io vorrei, desidererei, mi piacerebbe fare con la rigenerazione urbana sarebbe proprio far emergere dalla collaborazione con l'ente pubblico, cioè quindi gli amministratori locali, le comunità, gli abitanti, i residenti, anche con i turisti, perché comunque noi turismo qui non possiamo nasconderlo, esiste e quindi secondo me è uno degli elementi che va tenuto in considerazione, no? E per far emergere quello che è il desiderio e il sogno delle persone che andranno ad abitare quei luoghi, che stanno già abitando e che quindi si troveranno a vivere con quel luogo trasformato. Invece non è così. E oltretutto, in questi ultimi anni veramente assistiamo ad una nuova ondata e presa d'assalto della speculazione sul nostro territorio, in modo veramente violento e pesante. E poi ci sono appunto questi spazi molto grandi. E quindi sono presi di mira, ecco. Le cose succedono. Allora, quando abbiamo cominciato a febbraio, è stato qui uno, Eugenio. Diciamo, lui si definisce un artista del rumore. Quindi lavora con i suoni, però è anche un artista che fa, diciamo, docufilm, documentari. In realtà lui ha preso infatti lui ha preso come luogo di interesse l'ex cinema Loanese, un cinema chiuso da molti anni in centro storico a Loano. Era rimasto l'ultimo cinema in funzione, da cinque che ne avevamo a Loano. Io dico che ne avevamo perché io sono cresciuta a Loano, ho vissuto lì fino ai 19 anni, 18-19 anni, quando sono poi andata a Genova all'università, quindi sono molto legata anche a Loano. Avevamo due cinema al chiuso e tre all'aperto. E poi uno dopo l'altro sono caduti tutti. Il primo, una casa con un immenso box interrato, il primo cinema all'aperto è diventato. E poi un altro ha chiuso, anche quello era un altro cinema all'aperto, e non mi ricordo neanche cosa hanno fatto, ma ci sono case sopra adesso. E così anche in un altro che era aperto e al chiuso è diventata una grossa area di speculazione di circa 20-30 anni fa, fino a Loanese che era in funzione fino a boh, sarà 7, 8, 10 anni fa, no, anche 10 perché sicuramente sono 10 anni. Il regolamento comunale, siccome l'ingresso di questo cinema Loanese era proprio sulla via Garibaldi, che è proprio la via principale, il cosiddetto Caruggio di Loano, no? Non si potevano aprire punti della grande distribuzione. Invece il cinema Loanese è diventato proprio un supermercato. Perché chiaramente sono tutti furbi, no? E in questo caso l'imprenditore ovviamente fa sempre il suo, ma anche l'amministratore poi gli va dietro. Cosa hanno fatto? Sono arretrati, hanno lasciato le due porte d'ingresso con uno spazio appena alle spalle delle due porte d'ingresso di circa 40-50 metri quadri, hanno tirato su un muro e dall'ingresso laterale hanno fatto l'ingresso del supermercato. Non si entra via Garibaldi, si entra da un vicolo laterale. Il problema è che per 10 anni, cioè per 4-5 anni da quando hanno aperto il supermercato, tu vedevi, perché adesso è già di nuovo cambiato, questi due porte finestre ancora con l'insegna cadente del cinema, ed era una roba veramente tristissima. Quindi Eugenio ha scelto di lavorare su questo spazietto, su questo spazio in realtà, perché lui ha lavorato sul fatto che il cinema fosse morto, no? Quindi si è piazzato davanti a queste due porte chiuse per diversi giorni e ha registrato suoni e video, e poi facendo poi un paio di trasmissioni in diretta radio, andando a mescolare appunto questi suoni ed altri rumori. Inoltre abbiamo comprato due fogli di carta da pacchi grandissimi, li abbiamo attaccati a queste due finestre e abbiamo invitato i passanti a lasciare una loro riflessione, un loro pensiero, un loro sentire riguardo al fatto che questo cinema appunto fosse chiuso. Il cinema deve vivere, il cinema è un sogno, perché ci avete tolto il sogno, perché non c'è più perplessità e desiderio di averlo, vogliamo continuare a sognare. Qualcuno ha detto: ma perché questo spazio non lo dedicate ai giovani che non sanno dove trovarsi, non sanno dove incontrarsi? Quindi le cose più disparate, ovviamente, che era esattamente quello che a noi interessava cercare di raccogliere, ma non tanto. per noi. Il progetto di Rosso 9 con le sue residenze non ha l'obiettivo né l'ambizione di suggerire dei progetti per questi luoghi abbandonati, no? Ma fare riflettere le persone. Siccome una cosa molto diffusa che mi fa dispiacere è quella che quando parlo anche con amici, no? Dice, ma guarda, sì, ma il cinema non c'è più, oppure quest'area è abbandonata e adesso c'è questo progetto di speculazione. E faranno il centro commerciale, faranno appartamenti, seconde case. E vabbè, ma tanto cosa ci vorresti fare? Perché tu cosa ci vorresti fare? Cioè, è un po' come se la maggioranza delle persone fossero ormai rassegnate e non riuscissero a vedere oltre quello che è l'alloggetto per la vacanza, il centro commerciale, il ristorante e il bar dove andare a fare aperitivo. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, and I get you all on the Bingo Moon. Però volevo appunto accennarti anche agli altri due straordinari artisti. Abbiamo avuto due donne e due uomini l'anno scorso. Azucena è un'artista messicana che però vive in Europa da ormai l'anno scorso 8 anni, quindi 9, in particolare in Germania. Lei ha fatto un lavoro proprio col suolo, cioè col terreno. Siamo andati uno dei luoghi che abbiamo messo appunto come luogo di nostro interesse è il nostro orto che abbiamo nell'entroterra di Pietraligure, Aranzi, dove c'è un piccolo vigneto e coltiviamo qualche ortaggio per l'uso così familiare. Con lei siamo andate sul posto, abbiamo prelevato 8 campioni di terreno in 8 punti particolari che l'ha messi poi sulle mappe, sulla mappa, e con un processo mettendolo a contatto con delle sostanze chimiche e a depositare per 8 ore a contatto con una carta bianca e sono venute fuori queste sue opere in pratica. E quindi c'è tutto uno studio anche scientifico dietro questo tipo di lavoro. E quindi a seconda, poi c'è stata una relazione perché a seconda di come si è presentato questo questo colore e questa forma ha dato indicazioni di se il terreno era particolarmente favorevole o meno favorevole per la crescita delle piante e per il raccolto. Io sono molto contenta perché poi, allora, Azucena è stata qui a cavallo tra maggio e giugno, poi aveva un'altra residenza in Germania in piena estate, ha praticamente riproposto questo lavoro e poche settimane fa è andata in mostra, per cui insomma c'è un bel continuum. E poi l'altra esperienza anche molto bella con Rodrigo Troitino, è un ragazzo brasiliano che però vive in Spagna. E lui stava lavorando sulla felicità in quel periodo e in pratica ha scelto la via Julia Augusta, che è un pezzo di una via romana che collega Lazio ad Albenga. È stata una passeggiata molto molto bella, anche da un punto di vista panoramico, intendo dire, perché sei proprio sul mare, quindi in mezzo alla macchia mediterranea e poi hai anche questi reperti archeologici di epoca romana, in alcuni punti. E, insomma, lui voleva e ha intervistato dei passanti. Chiedendo loro di raccontare una loro esperienza legata ad un'esperienza di un momento felice della loro vita. Col loro racconto, lui un pezzo di cartone e un po' di colori, mentre le persone raccontano, dipinge quello, coglie l'essenza della loro esperienza di felicità. E le dipinge. In questo caso il piccolo dipinto, perché erano, fai conto, un formato a 5, poco di più, insomma, mezzo a 4, per capirci. E alla fine li ha donati, ciascun dipinto l'ha donato a ciascuna persona che ha deciso di raccontare la sua esperienza di felicità. Questo è molto bello perché comunque per me è stato interessantissimo anche da un punto di vista antropologico osservare le persone, no? Osservare perché noi andavamo tutti i giorni in un certo punto della zona lì, della Via Augusta, lui sistemava tutti i suoi colori, i suoi cartoncini e cominciava a fare qualcosa, a dipingere, no? E allora vedevi le situazioni più disparate. Chi lo ignorava completamente, chi sbirciava ma si teneva a debita distanza per paura di essere accalappiato e sospettava che gli si volesse vendere qualcosa. E i bambini si avvicinavano invece incuriositi, il più delle volte. E quindi per me, che ero presente, però non facevo l'azione, ma osservavo, è stato molto molto interessante vedere le persone come si comportano, no? E solo chi si avvicinava a me o a Rodrigo e chiedeva, allora noi raccontavamo cosa stava succedendo e se volessero partecipare. Anche a quel punto lì c'erano ancora delle persone titubanti perché pensavano che poi alla fine dovessero pagarla questa opera. E è stato interessantissimo, proprio molto interessante. Alla fine, in realtà sono una ventina di persone abbiamo coinvolto. Come? Non poche. Niente, ciascuno, l'unica cosa che Rodrigo chiedeva in cambio era di fare due foto con lui, cioè una foto col disegno in mano e una foto insieme a lui, insomma. Fatica perché io sono partita con talmente tanto il desiderio e l'entusiasmo di farla questa cosa che non voglio essere troppo spavalda, ma non avevo paura. Cioè, l'unico dubbio che però ho testato l'anno scorso d'estate era il fatto di dire: caspita, però io ho sempre gente per casa, però amici, parenti, cioè gente che conosco, no? Era il discorso di avere persone che io incontravo per la prima volta in casa mia. Okay. Allora ho detto, vabbè, io provo a fare un annuncio, e lo metto su Airbnb, provo ad affittarla per qualche settimana, questa stanza, e faccio l'esperimento. Se vedo che c'è qualcosa che proprio mi crea problemi, e vedo anche come tarare, no, questa cosa. Invece sono stata innanzitutto fortunatissima perché mi sono beccata un ragazzo di 17 anni che è stato qui 2 settimane e poi vabbè gli ultimi giorni è venuta anche la sua fidanzata a trovarlo e io ero in contatto con la mamma perché è la mamma che ha prenotato, insomma, quindi io ho ospitato questo ragazzino, questa ragazzina ed è stata una roba bellissima e quindi niente, mi sono trovata, ho detto no, io devo partire con questa esperienza. Poi non lo so, io ho una sensazione nei confronti degli artisti di fiducia totale. E poi però, no, attenzione però. Però c'è anche Federico con me, cioè la sua collaborazione da sempre è preziosissima. No, lui non è presente fisicamente, però comunque a livello così di organizzativo, di condivisione, di riflessione è assolutamente fondamentale, e, senza il quale chiaramente non sarei stata in grado di partire in questo modo. E quindi diciamo che noi facciamo una call, ecco, quando abbiamo raccolto le adesioni, abbiamo incontrato ciascuno di questi artisti online. Sì che il video non è come di persona, però il video e la chiacchierata video dice già tanto. Rigonia. Allora, quest'anno volevamo lavorare su questo spazio del cantiere navale. Abbiamo alcune proposte, le abbiamo tenute un pochino lì, diciamo, da parte, perché appunto volevamo prenderci questo tempo per insomma, costruire questo breve documentario su questo spazio preziosissimo di Pietraligure. Ecco. Ci sono già delle idee anche per l'autunno, quindi sicuramente, insomma, l'idea è quella in autunno di avere di nuovo altri artisti qui. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Rigonia. 14:53, 9 giugno 2024, domenica, Radio Antidoto. Questa è stata Rigonia, stagione 02, episodio 29. L'intervista a Cristina Vignone che ho dovuto editare perché ho avuto un problema tecnico della mia voce che non si sentiva. Un unico appunto, anzi due, che devo fare rispetto a quello che abbiamo perso nell'editing della traccia è che il sito di Rosso 9 è www.rosso9.org e che il catalogo di Rosso 9 e l'edizione cartacea è acquistabile su lulu.com e che comunque la residenza Rosso 9 è attiva anche sui social, soprattutto su Instagram. Anche se Cristina dice che non sono molto bravi, ma non importa, il sito comunque è molto bello e ben navigabile. E spero che la storia di Rosso 9 vi abbia incuriosito, vi sia interessata. È un bel progetto, gli artisti che hanno partecipato sono tutti ragazzi molto in gamba, io ne ho conosciuti un paio e sono molto molto bravi e le loro opere molto belle. E noi ci salutiamo qui, fate un buon proseguimento di domenica, un buon riposo e torneremo con le nostre regolari trasmissioni. Qualcuno da intervistare ce l'avrei ancora, ma è rimasto tutto in sospeso. Io continuo a sperare che voi sentiate gli uccellini che sento io. A me sembra che entrino in cuffia. Io me lo auguro perché sono molto molto bellini. Non mi resta che mandare la sigla. Restate su Radio Antidoto. Oggi abbiamo sia Sfasso che Radio Submarine che entrano in onda. Statemi bene. Arrivederci. su Rigonia.